Yeah. Maruluscuno fenno, maruluscino cat, maruluscuno fenno, maruluscino cat, chino cat nen bu uno, chino una nen bu pa, tra di ralla di ra di di, rulla di di ra di ra di ra, tra di ralla di ra di di, rulla di ralla di di ra ra. Thank you.